cioccolate buone, a cioccolate dolci, eppure a camomilla bene fa, rinfresca l'orzio vino fa felice, e sull'acqua sete fa passare. Ma un milione gente e Napoli come a me non vanno sapere niente e campano con caffè. Si spiega perché è una vera specialità, ah, cattore caffè, casa senza pasta città. Io nervoso, nervoso con me, ogni tanto so fa pigiare. Come nasce tu siendo febbe, cari 5 e 2, non vuoi caffè. E l'inglese si scorda rotte, si verrà a sapere espresso che ah, che bello caffè, sulla tavola sanno fa. E così si è spiegato perché, capo tutta irnata, una tazza buonata, sa carta si scappa, se bevo un caffè. Per bevere un caffè si trova scusa, e l'offra nata l'offra a me. Nessuno dice no perché non offesa, so già sei tazze sono appena tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, ehi, e aspetta un momento, bevimoci un caffè. Sanno fa e nessuno si spiega perché è una bella specialità, cattore caffè, casa senza pasta città, è nervoso, nervoso con me, ogni tanto so fa pigliare. Come nasce tu siendo bebè, dal 5 in 2 non pochi caffè, e l'inglese si scorda rotte, si viene a sapere espresso che è cambiando il caffè, sulla Napoli sanno fa, e così si è spiegato perché capo tutta il nome, una tazza buonata, sa che si scappa, se beve un caffè. Bello caffè, sulla tavola sanno fa. E così si è spiegato perché capo tutta aiutata, una tazza buonata, sa carta e si scarta, se beve un caffè. Che bello caffè.